Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Sono Franco Cesari ed insieme a Francesca Romano ed Elisa Pasquini faccio parte dell'associazione Energicamente. Nello specifico, io mi occupo di formazione e ricerca per il recupero psicofisico della persona, sono un counselor cognitivo relazionale e maestro di Reiki, nei diversi stili giapponesi ed occidentali. Nella puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di materia e di vibrazioni per introdurre il tema più ampio del protocollo di trattamento energetico-vibrazionale che abbiamo messo a punto all'interno dell'associazione per favorire il rapido ed efficace recupero della vitalità e dell'equilibrio psicofisico dell'individuo. Continuiamo dunque ad approfondire l'argomento oggi parlando di energia. Per energia si suole intendere la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere un certo lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente poi svolto. Il termine energia deriva dal tardo latino energia, a sua volta desunto dal greco energeia. La parola è composta da en, particella intensiva, ed ergon, ovvero la capacità di agire. Il termine è stato introdotto da Aristotele in ambito filosofico per distinguere la dynamis, la possibilità, la potenza propria della materia informe, dalla reale capacità di assumere poi o far assumere un'azione formale. Nella lingua italiana la parola energia non è direttamente derivata dal latino, ma è ripresa nel XV secolo dal francese énergie. In Francia il termine è usato appunto nel XV secolo nel senso di forza in azione. In Inghilterra, nel 1599, energy diviene sinonimo di forza o di vigore di espressione. Thomas Young fu il primo ad usare questo termine, energy, in senso moderno, nel 1807. Il concetto di energia può emergere intuitivamente dall'osservazione sperimentale del fatto che la capacità posseduta da un sistema fisico di compiere un certo lavoro diminuisce man mano che il lavoro stesso viene prodotto. In questo senso l'energia può essere definita come una proprietà posseduta dal sistema che può essere quindi scambiata da un corpo all'altro, ceduta nell'ottica del sistema in esame, attraverso il lavoro. L'energia è una grandezza fisica di tipo estensivo, vale a dire che l'energia di due o più corpi è il risultato della somma delle energie espresse dai diversi corpi presi tra loro singolarmente. Assume importanza fondamentale nella formulazione di molte teorie, dalla meccanica classica alla termodinamica, dalla teoria della relatività fino anche alla meccanica quantistica. Una precisa definizione di energia non è semplice da fornire. L'energia non ha alcuna realtà materiale, è piuttosto un concetto matematico astratto. Una precisa definizione di energia non è dunque semplice da fornire. L'energia non ha alcuna realtà materiale, è piuttosto un concetto matematico astratto. Non esiste quindi nessuna sostanza o fluido che corrisponda tangibilmente all'energia pura. Giova ricordare che già prima degli studi di Einstein, quindi prima del 1905, della loro pubblicazione, esistevano due leggi o principi fondamentali per la conoscenza dell'energia. La legge di conservazione della massa, scoperta da Lavoisier, e la legge di conservazione dell'energia, primo principio della termodinamica, alla cui scoperta hanno contribuito nella seconda metà dell'Ottocento diversi scienziati, Joule, Carnot, Thomson, Clausius, Faraday. Nulla si crea e nulla si distrugge, diceva questo principio di conservazione dell'energia, ma tutto si trasforma. Nel 1905, poi, Einstein enuncia la nota equazione E uguale a mc quadro. Fino ad allora tutti pensavano che la massa e l'energia fossero due realtà fisiche molto diverse, completamente separate, dunque, senza punti di contatto tra loro. Ma Einstein, in quell'anno, passato alla storia come il suo annus mirabilis, comprese che queste due realtà fisiche, apparentemente così diverse, sono in realtà strettamente connesse tra loro da un valore numerico molto preciso, che è il quadrato della velocità della luce nel vuoto, cioè c quadro, c al quadrato. Questa geniale e semplice formula, che all'epoca risultò assolutamente rivoluzionaria, stabilisce che massa ed energia sono equivalenti, come se fossero due facce della stessa medaglia. In questo modo Einstein ha unificato le due leggi accennate in un unico principio di conservazione, che coinvolge unitariamente tutti i processi fisici di trasformazione della materia in energia e viceversa, ovviamente, dato che l'una può trasformarsi nell'altra secondo una relazione esattissima, matematica. Ciò che resta sempre costante sul nostro piccolo pianeta e nell'universo è la somma di massa ed energia. Con Einstein, dunque, è nato il principio di conservazione della massa-energia. La nuova concezione di Einstein, che dalla massa-energia si estende allo spazio-tempo, si contrappone nettamente a quella di Newton, per esempio, no? Il quale riteneva che il tempo fosse assoluto e perciò completamente separato dallo spazio. E questo segna la scissione tra la fisica newtoniana dalla fisica di Einstein, la fisica moderna. Un esempio palese di quanto enunciato da Einstein è dato dall'azione del Sole. Nella stella principale del nostro sistema solare, che ha una temperatura interna di 15 milioni di Kelvin, mediante le reazioni di fusione termonucleare, quindi la fusione protone-protone dei nuclei di idrogeno, ogni secondo 600 milioni di tonnellate di idrogeno si trasformano in 595 milioni e 500 mila tonnellate di elio. Quindi, dopo questa trasformazione, sembrerebbero mancare all'appello in ogni secondo qualcosa come 4 milioni e 500 mila tonnellate di idrogeno, pari allo 0,75% dell'intero volume, che parrebbero così svanite nel nulla. In realtà questa massa mancante si è trasformata direttamente in energia, ovvero in radiazione, quindi in calore e luce, secondo l'equazione di Albert Einstein E uguale mc quadro, per l'appunto. In seguito a queste scoperte risulta dunque evidente la capacità che hanno i corpi, intesi come massa, di cedere o incrementare l'energia attraverso le interazioni che intercorrono con altri corpi. Esistono dunque numerose possibili interazioni tra corpi diversi, anche se a livello fondamentale si è soliti identificarne quattro: l'interazione gravitazionale, l'interazione elettromagnetica, l'interazione nucleare debole e l'integrazione nucleare forte. In questa sede prendiamo in considerazione soltanto l'interazione elettromagnetica, perché è l'interazione in realtà che è responsabile delle proprietà chimiche degli atomi e della struttura delle molecole. La carica elettrica determina l'intensità e il verso dell'interazione tra corpi fisici. Corpi con uguali cariche elettriche si respingono, lo sappiamo, mentre corpi con cariche elettriche discordi si attraggono. Il campo elettromagnetico è un campo costituito dalla combinazione del campo elettrico e di quello magnetico ed è generato dalla variazione di cariche elettriche nel tempo, che fanno sì che si propaga questo campo sotto forma di onde, chiamate appunto onde elettromagnetiche. Il campo elettromagnetico è un fenomeno ondulatorio, dunque, che non richiede alcun supporto materiale per diffondersi nello spazio e che nel vuoto viaggia alla velocità della luce. Per concludere queste breve note che riguardano l'energia ed alcune sue manifestazioni fondamentali, occorre tenere ben presente il fatto che tutti i possibili processi interagenti tra due o più corpi fisici lasciano in realtà invariata la quantità totale di energia, che quindi diventa una grandezza fisica costante all'interno di sistemi chiusi o isolati. Questo è molto molto importante. Ci lasciamo con un'altrettanto importante affermazione di Richard Feynman. Richard Phillips Feynman è stato premio Nobel per la fisica nel 65 per l'elaborazione dell'elettrodinamica quantistica. Le idee di Feynman sono raccolte in un'opera piuttosto corposa intitolata La fisica di Feynman. Il titolo originale era The Feynman Lecture of Physics. Si tratta di un corso universitario di fisica pubblicato in diversi volumi, basato sulle lezioni universitarie che sono state tenute negli anni 61-62 e 62-63 al California Institute of Technology, al Caltech. Erano rivolte a studenti dei primi anni di corsi universitari. Le lezioni date da Feynman vennero registrate e quindi venne fatta la trascrizione da cui è stata generata quest'opera importante che vi invito a trovare anche in internet. Nel corso di quelle lezioni, così come riportato nell'opera, Feynman ebbe ad affermare: c'è un fatto, o se volete una legge, che governa i fenomeni naturali sinora noti. Non ci sono eccezioni a questa legge, per quanto ne sappiamo è esatta. La legge si chiama conservazione dell'energia ed è veramente un'idea molto astratta perché è un principio matematico. Dice che c'è una grandezza numerica che non cambia, qualsiasi cosa accada. Non descrive un meccanismo o qualcosa di concreto. È solo un fatto un po' strano. Possiamo calcolare un certo numero e quando finiamo di osservare la natura che segue i suoi giochi e ricalcoliamo il numero, troviamo che non è cambiato. Nell'augurarvi una vita felice, nella consapevolezza della propria energia e dandovi appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo i nostri riferimenti. Il sito web è all'indirizzo www.energica-mente.it e potete anche scriverci all'indirizzo email info@energica-mente.it o anche telefonarci ai numeri 340-2345-340, è quello di Francesca, o anche al numero di Elisa, al 339-3860-1213, o al mio, Franco, al 329-8989-669. Vi ricordo inoltre la nostra pagina Facebook, Energica-Mente, competenze per il benessere. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui su Radio Big World. Ringrazio come sempre Davide e Giorgio per l'ottima opportunità che ci hanno dato e vi saluto con il consueto Namaste Gassho. A risentirci!